leggendo tacito, non mi capacito, mentre mi musico, come uno storico, accetto il carico di un mondo panico, ma incomprensibile, visto da qui, visto da questa stanza, non c'è abbastanza distanza, visto da qui, da questa schiva, non colgo la prospettiva, è piatto, il mondo certe volte sembra piatto, magari c'ha ragione qualche matto, che dice che i potenti ci controllano, è tutto un grande buco di una serratura, fa paura, ma ora non pensarci, e muoviti seguendo il boom, boom, muoviti seguendo il boom, boom, boom, boom. Muoviti seguendo il boom boom, muoviti seguendo il boom boom, boom boom boom boom boom. L'amore si può fare anche su zoom zoom. Boom ecologico, boom tecnologico, boom economico, boom autorotico. Ma è meglio dal vero, giuro, calore, profumo, chiaro, scuro. Toccarsi la pelle, arrivare alle stelle, cadere, rialzarsi, sentirsi ribelle, belle. Stasera siamo tutti stelle, stasera siamo tutti stelle. E più c'è buio, più si brilla, anfetamina e camomilla. Leggendo Nietzsche, quello che dice in superficie a molti non piace, ma Zarathustra parla e ci illustra che è tutta nostra questa giostra. Giù il gettone, giù il gettone, giù il gettone, giù il gettone, è tondo, magari non perfetto però tondo, il mondo non è piatto per niente, non dare retta a certa gente, scatena la sua forza, la natura fa paura, ma ora non pensarci, e muoviti seguendo il boom boom, muoviti seguendo il boom boom, muoviti seguendo il boom boom, muoviti seguendo il boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. La vita mi assomiglia a quella di Leo Bloom, con l'auto elettrica non fai brum brum. Ma c'è attendo un mondo silenzioso, spaziale, ma non spazioso, forse spazzoso, spesso palloso, spiato, spietato, spaventoso, vince chi è più falloso. Il mio nuovo nome è Coso, come Coso, come Coso, come Coso, come. Muoviti seguendo il boom boom, muoviti seguendo il boom boom, boom boom boom. Spesso palloso, spietato, spietato, spavento, vinci che è più falloso. Il mio nuovo nome è Coso, come, come, come, come. E muoviti seguendo il boom boom, muoviti seguendo il boom boom.